Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantelli in redazione, Filippo Aureggi in regia per questo primo giugno che è il giorno delle liste, del listone, dell'ultimo di Lippi da commissario tecnico. 5 giocatori da tagliare, una rosa che ha lavorato al Sestriere. A quanto si dice Sirigu e Quagliarella sarebbero certi dell'esclusione, poi vari ballottaggi, Bocchetti, Cassani, Cossu, Montolivo, soprattutto Boriello Rossi che sembra al momento il più incerto. Come vive queste ore un giocatore? Ce lo facciamo spiegare da un campione come Franco Causio, in partenza per il mondiale con la squadra di Sky. Buon pomeriggio Franco, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Come vive queste ore un giocatore? Ma sai come vive un giocatore? Io credo che uno ci sono due tipi di giocatori in questo momento, che sono quelli che sono sicuri di andare ai mondiali e quei che purtroppo stanno aspettando il momento della decisione del commissario tecnico Lippi. E hai detto i nomi tranquillamente, Boriello, Rossi e altri, quindi io credo che in questo momento un po' di fibrillazione c'è, quindi è normale, un po' di tensione, sì. Però è una cosa scontata. Io in questo momento Boriello lo preferisco a Rossi, se ci deve essere una scelta, anche per il campionato che ha fatto. Rossi ha avuto un'annata un po' anonima in quest'anno, quindi anche se forse Lippi lo preferisce per, non lo so, sotto quattro forma, quindi io credo che in questo momento Boriello sia avvantaggiato nella scelta. Sono d'accordo con te nel preferire in questo momento Boriello Rossi, però è una nazionale, Franco, che non ha grande tecnica e fantasia, qualità che a te non facevano difetto, tanto che anche un giocatore come Cossu io ci penserei bene prima di non portarlo. Insomma, là davanti manca un po' il giocatore che salta l'uomo, manca il giocatore con l'ultimo colpo, non ti pare? Dobbiamo entrare di nuovo in polemica, manca un Cassano. Sì. Quindi, sinceramente, un classico numero 10 non c'è all'Italia, come c'è stato prima con Baggio, poi con Totti, poi con Del Piero. Quindi c'era il Cassano, che secondo me io reputo uno dei migliori talenti negli ultimi 10 anni che il calcio italiano abbia potuto tirare fuori, quindi... E purtroppo non c'è. Dobbiamo rispettare le scelte di Marcello Lippi, naturalmente, come allora furono le scelte di Berzotto che fece un convoco per Calossi. Adesso bisogna rispettare lui. Auguriamoci che vada tutto per il meglio, che la nostra squadra arrivi fisicamente a posto, che recuperano tutti gli infortunati, e poi speriamo che possa fare la strada che ha fatto nel 2006. Certo. In Germania, quindi più di questo da italiani non possiamo aspettarci. Naturalmente. Arrivare più a lungo è difficile ripetersi, però auguriamoci che faccia più strada possibile. Certo, un mondiale non sai mai. Il futuro è già chiaro, però, al di là dei fumi della Fiorentina. Io ne ho fatti 3 di mondiali. Nel 74 in Germania siamo partiti per battere tutti e siamo stati eliminati al primo turno. Sì. Nel 78 ci hanno detto di non andare, non avevamo attributi. È meglio rimanere in Italia, siamo andati in Argentina e abbiamo fatto la nostra figura, e sapete per quale motivo siamo arrivati quarti, quindi purtroppo la semifinale sono andate male, arbitri un po' particolari, sì. E quindi in Argentina ci è andata un po' male. Nell'82 non siamo partiti con sfavore nei pronostici, abbiamo vinto il mondiale, quindi c'è sempre un'incertezza, c'è sempre un qualcosa di diverso, oppure o qualcosa che uno dice parte con un favore e invece arrivi che è scornato, poi invece parti che non devi fare niente e dici mondiale. Sì. 800 24 00 24, numero verde per parlare con noi. Franco, dicevo, futuro già chiaro al di là dei fumi della Fiorentina, una situazione molto inedita per il calcio italiano, una situazione che a me piace parecchio perché c'è chiarezza. Prandelli, sì, arriverà. Però avrei aspettato a dire il nome, sapevamo tutti che Prandelli sarebbe diventato il futuro allenatore della nazionale, però aveva aspettato almeno la fine del mondiale. Quindi anche per, capisco la chiarezza, capisco tutto quello che c'è. Vedi, poi adesso ho comunicato dalla Fiorentina, c'è sempre dei problemi che vengono fuori che ne farei volentieri almeno, quindi delle polemichette, delle cose. Quindi, avrei aspettato, avrei fatto partire Lippi per fare mondiale e poi alla fine del mondiale, più lontano possibile, avrei detto praticamente che Prandelli era CT della nazionale. Non trovi che in questo modo... Io la penso così, poi... Sì, no, ma è legittimo assolutamente, ma non trovi che in questo modo Marcello avrà la massima libertà possibile? Non c'è un contratto da conquistare, la critica sarà anche un po' disarmata, perché non saremo tutti lì a dire... Ma ma credo che già era già in partenza, si sapeva, Marcello aveva già detto a Natale che sarebbe andato via, quindi si sapeva benissimo che Marcello Lippi non c'era futuro più per la nazionale per lui, quindi lui aveva detto vado via, basta, chiuso il mio ciclo, è finito. Si sapeva che andava a Prandelli, si aspettava la fine del mondiale, sì, diceva Prandelli ci tira la nazionale. Sì che arriva la situazione con la Fiorentina, io penso che sarebbe stata la cosa più giusta, quindi... secondo me, poi sì, certo. Ognuno la pensa a suo modo. Sai, viviamo in giorni un po' particolari e a questo proposito volevo rubarti altre due considerazioni che non riguardano la nazionale, perché si sa oggi che il tuo ex compagno di squadra Fabio Capello si è chiamato fuori per l'Inter, rimane aperto il tormentone di questo inizio d'estate, no? Chi va ad allenare l'Inter? Tu chi ci vedresti? Ma io potrei andare anch'io a allenare l'Inter, quindi è talmente forte questa squadra che può che può fare quello che vuole, quindi credo che non bisogna, un allenatore che va a allenare l'Inter non deve fare, anzi togliere gli equilibri che ci sono stati quest'anno, quindi Mourinho ha dimostrato di essere un grande allenatore, tatticamente molto bravo, però aveva una grande squadra, bisogna ammetterlo, quindi lui dice che lascia al suo successore tre finali, ma chi gli ha detto di andare via? Mica noi, è stato lui a fare la scelta di andare via, quindi è stato lui a dire voglio andare a Madrid e vincere. Certo. Non è facile, deve ricostruire, è bravo perché sicuramente ha dato qualcosa al calcio italiano che è uscito fuori dalle righe. Sì, probabilmente sì, nessun allenatore italiano avrebbe, anzi, si è esposto lui, ha detto delle cose che praticamente nessuno avrebbe detto. E io credo che bisogna anche... No, ma sono d'accordo. Praticamente voi ringraziarlo perché ha dato tutti i giorni, dava la possibilità ai giornali di fare a voi giornalisti ha fatto comodo, però io penso che abbia fatto comodo, come dici tu, all'intero calcio italiano, no? Che è abituato a mettere un po' troppo spesso la testa sotto la sabbia, è abituato a un po' troppo buonismo. Questo, giocandosi la faccia tutti i giorni, alla fine ha detto delle cose. Al di là dei giornali ha detto delle cose, le ha dette non solo ai giornali ma al calcio italiano, ha insegnato un modo un po' diverso, una dialettica un po' diversa, che non è peccato, secondo me non è così peccaminosa come si può pensare. Franco, per chiudere, ti convince invece la scelta di Del Neri per una Juventus che non ha più tempo? Ma sai, Gigi ha fatto bene al Chievo, ha fatto bene quest'anno alla Sampdoria, ha avuto qualche anno un po' particolare, meno bene sia alla Roma, anche al Porto, quindi a Palermo è stato un po' sfortunato, però credo che lui è un grande lavoratore, io lo conosco, è un friulano duro, carattere, è uno che non è vero che si sta in porre, è uno che quest'anno ha dimostrato già, anche con lo stesso Cassano, di gestirlo in un certo modo, e poi ha avuto ragione lui, quindi l'ha impiegato in un ruolo che all'inizio non era il suo ruolo, gli ha messo in testa che lui deve fare un determinato tipo di lavoro in questa squadra, nella Sampdoria, e alla fine ha avuto ragione, quindi Cassano è entrato nelle ultime partite, ha fatto, se non sbaglio, 8 gol nelle ultime 6 partite, quindi credo che è un allenatore che sappia il fatto suo, un allenatore esperto, e credo per, non so cosa gli metterà a disposizione, poi ha un direttore sportivo, secondo me Marotta, che è uno dei più bravi, se non il più bravo, e sicuramente gli metterà a disposizione una squadra importante, anzi degli acquisti importanti. Per me la Juve non deve fare una rivoluzione, perché secondo me una base solida c'è in questa squadra. Sì. Deve fare 3-4 acquisti giusti, non sbagliarli, e secondo me può fare un ottimo campionato. Sì, sono d'accordo. Grazie Franco, buon viaggio, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Grazie davvero a Franco Causio. Adesso il traffico, subito dopo cominciamo a parlare con gli ascoltatori. Poi già vi annuncio un'altra puntata in Inghilterra per... capire com'è oggi definitivamente la situazione di Capello, ma per capire anche com'è la situazione del Liverpool, perché a questo punto pare che la pista Benitez sia la più calda per l'Inter, però al Liverpool è tutto in divenire, quindi non è detto che anche giocatori come Fernando Torres non possano, o Aquilani o Gerrard, non possano lasciare i Reds in fase di ristrutturazione. Tanti messaggi, ad esempio questo: io stra Juventino non portavo né Rossi né Boriello ma Balotelli, difficile capire questa mancata convocazione, Fede d'Alessandria, oppure perché non sono in discussione Iaquinta e Gilardino reduci da una stagione opaca, domanda Antonio, oppure ancora quanto detto da Causio conferma ancora una volta quanto le motivazioni e le tensioni e più in generale siano fondamentali quanto i valori tecnici per una squadra, ma proprio per questo continuare a ripetere che sarà difficilissimo ripetersi non è partire già sconfitti in partenza, Vincenzo da Bologna, non è partire già sconfitti in partenza, chiaro che però questa nazionale insomma, è il sequel di quella della Germania, di quella campione del mondo. È una squadra più vecchia di 4 anni, una squadra che secondo me doveva affrontare questo mondiale in una situazione diversa, non tanto con l'idea di un bis molto molto difficile ed è inutile nasconderlo, quanto con l'idea di mettere, di cominciare a costruire una nazionale magari pronta tra 4 anni per il prossimo mondiale. È chiaro che questo sarebbe stato di passaggio, di transizione, almeno questo secondo me, questo è il mio pensiero. Quanto a Iaquinta, Gilardino, lo stesso Rossi, eccetera, perché non in discussione? Perché sono uomini di Lippi, sono uomini sui quali Lippi ha costruito per 2 anni la nazionale. Sappiamo bene quale sia il modo di lavorare di Marcello Lippi, ed è per questo motivo che secondo me nel tardo pomeriggio, quando ci sarà la lista dei convocati, sparirà Borriello, perché è stato inserito all'ultimo momento, perché è stata un'aggiunta all'ultimo momento di questa squadra che Lippi ha già in testa. Dunque ai mondiali sarei molto sorpreso non ci andasse Giuseppe Rossi, pur reduce da una stagione sai poco brillante in Spagna. Nico, provincia di Pordenone, buongiorno. Salve, buongiorno. Niente, volevo solo parlare di un giocatore che secondo me viene considerato non adeguatamente, perché prima sentivo Causio, che tra l'altro conosce bene l'Udinese ovviamente, e diceva, se non ho capito male perché purtroppo ho acceso un po' tardi, che sì, non ci sono grandi cuori classe. No, che non ci sono, non c'è l'uomo dell'ultimo passaggio, insomma, manchiamo di un po' di talento alle spalle delle punte, manchiamo del giocatore in grado di saltare l'uomo e di dettare l'ultimo passaggio. Totti, Cassano, Balotelli con caratteristiche diverse, insomma, sono questi tre i nomi, no, che mancano all'appello, anche se è un momento storico in cui il calcio italiano non... O proprio perché siamo in un momento storico, il calcio italiano non offre tanti giocatori con queste caratteristiche. Prego. Non ne offre tanti, però io ho avuto la fortuna, ogni tanto ancora provo di vederlo dal vivo. Secondo me Di Natale è l'unico fuori classe che abbiamo in Italia. Però forse non è bello, forse non ha la voda, insomma, qualche altro sponsor, sì, ma è un giocatore che secondo me veramente è l'unico che può fare la differenza. Poi Nico, infatti Di Natale sarà giustamente titolare di questa nazionale. Va anche detto che Di Natale, insomma, non è un giocatore grandissimo nel lago del campionato italiano, nel mare aperto del calcio internazionale non abbiamo visto molto, e comunque ha non dico fallito perché non è la parola giusta, però è stato in parte usato come capro espiatorio nell'ultima spedizione europea, quella di Donadoni. Era un giocatore voluto da Donadoni, era un uomo di Donadoni, poi è stato sacrificato sull'altare di quell'europeo così storto. Va detto appunto che non è un giocatore che ha grandi esperienze di calcio internazionale, purtroppo. È la sua grande occasione ed è anche l'ultima, io credo, vista l'età, questo mondiale. È certo che lì davanti è quello che ha più il guizzo, no? Che ha più il talento, che ha più l'estro per poter saltare l'uomo, per poter dare un po' di fantasia a una nazionale un po' piatta da questo punto di vista. Massimo, Brindisi, buongiorno. Buongiorno. Se la vuole permessa, vorrei dire che, come giusto che sia, ognuno la può pensare a modo suo su Mourinho. Comunque, io parlo come allenatore, non si discute, un grande motivatore, non c'è niente da dire su questo. Io ho molte cose da dire sul suo comportamento, perché prima sentivo voi che ne facevate solo elogi. Io sul comportamento avrei molte cose da dire, perché però dopo i primi 2-3 mesi che faceva ridere un po' tutti con le sue battutine ha cominciato a offendere chiunque. Ma offendere chi? Offendere chi e perché? Sul piano personale ho offeso Ranieri. Cosa gli ha detto? Quando gli che ha non detto, sapeva parlare l'inglese? Che sembrava uno di 70 anni, era un vecchio. Cioè, e quello è un atteggiamento non da allenatore che deve parlare di calcio davanti alle telecamere, ma penso che sia da cabarettista, siccome erano nell'intervista un allenatore di calcio e non era una trasmissione di Zeli, che penso che Mourinho doveva usare un atteggiamento, un linguaggio diverso. Questo è il mio modo di vedere. Sì, sì. No, è una questione di gusti e di punti di vista. Mourinho è stato in alcuni casi villano, ma insomma, la verità è che non siamo abituati a personaggi di questo genere, che non siamo abituati a questo tipo di dialettica. La verità è che non ha trovato Mourinho un contraltare all'altezza, un alter ego all'altezza. Non ha trovato nessuno come lui, e forse non lo troverà nemmeno in Spagna, anche se lì, insomma, magari, insomma, Guardiola è uno che la dialettica ce l'ha, quindi immagino anche un bel duello verbale che potrebbe esserci con Guardiola, così come in Inghilterra c'è stato con Wenger, così come in Inghilterra c'è stato con Ferguson. E ripeto, io non ci vedo niente di male, di peccaminoso, niente di cui scandalizzarsi in questo. Il fatto è che noi siamo abituati a sentirci dire, siamo abituati da così tanto tempo a sentirci dire così tante volte che la palla è rotonda e gli avversari sono bravi, che quando capita uno così che dice una mezza cosa che magari è anche una verità, allora siamo quasi disarmati. Questo è il mio punto di vista. Luca dalla provincia di Verona, buongiorno. Buongiorno. Luca? Luca, non lo sento. Allora ci proviamo dopo. Gianluca dalla provincia di Modena, buongiorno. Ah, buongiorno. No, io sentivo adesso la sua ringa con... Non è una con ringa. Mourinho. No, nel senso che voglio dire, non si può dire da parte di un giornalista che Mourinho ci ha insegnato e noi non siamo abituati. Mourinho è secondo me... Non ho detto che ci ha insegnato. No, buon allenatore, non un fuoriclasse, un buon allenatore che comunque è un villano, perché cioè lui non si può permettere di andare in conferenza stampa a dire a questo e quell'altro che lui vince, quegli altri no. Perché non è vero? Non è vero? È vero, però. Allora. No, voglio dire, però, un Capello, un Ancelotti, un Ranieri o Ferrara comunque, che io ritengo... poveretto che l'hanno, io sono milanista, però ritengo che l'abbiano un pochino messo da parte, non avrebbero mai avuto questo atteggiamento. Peccato, questo io sono peccato, in questi peccato, perché se Ferrara avesse spiegato i motivi per cui l'hanno messo da parte, se Ferrara avesse spiegato davvero che cosa è successo in quello spogliatoio, magari avremmo capito qualcosa di più un po' tutti, avremmo magari... provato a comprendere il suo fallimento, no? Peccato che non ci siano altri allenatori con il coraggio di dire qualcosa. Peccato, ripeto. Poi è chiaro che ognuno vive la professione a modo suo, è chiaro che Ancelotti non potrà mai fare Mourinho perché vive la professione in un'altra maniera. E lì è questione di gusti. Anche a me piace da morire un allenatore come Ancelotti. Mi piace... tantissimo ovviamente un allenatore come Fabio Capello, che pure è uno che per sulla lingua non ne ha poi tanti, e tutte le volte che ha detto qualcosa c'è stata la levata di scudi nei suoi confronti. Dall'ultima storia, quella degli ultra che hanno in mano calcio italiano, ne parliamo ancora adesso, è una grande verità, ma molti si sono offesi. Insomma, è il destino di quelli che ci mettono un po' la faccia, no? Se uno non ci vuole mettere la faccia e ci dice che la palla è rotonda, lo prendiamo così com'è, cosa c'è da discutere? Gianluca, provincia di Modena, era questo. Adriano da Rimini è il prossimo. Luca dalla provincia di Verona, poi ci proviamo. Adriano, buongiorno. Buongiorno. Dica. No, niente. Sentivo adesso la risposta che hai dato su Mourinho. Io non dico, però, il Mourinho tecnico, per carità. Non sono giornalista, però quando una persona si permette di dire parlo con voi perché mi pagano, perché se no non parlerei. Uno. Seconda cosa, quando si permette di dire Calciopoli... questo è un mondo, mi vergogno, come se lui venisse da un altro mondo. Se non vado errato, lo stesso problema l'ha avuto anche in Portogallo e l'ha avuto probabilmente anche il Porto. Io, tutte queste cose mi lasciano perplesso, ma ripeto, non discuto l'allenatore, tanto di Capello eccetera eccetera, però come uomo e come persona non credo che sia uno che l'ha preso da imitare. Poi che abbia la dialettica, che sia un bel uomo, che piace alle donne, ma chi se ne frega, che sia un bel uomo, non me ne frega niente, però ma io no, ma scusi, ma se dice parlo con voi perché mi pagano per parlare con voi, è la verità, cioè qual è il problema? Parlo con voi giornalisti perché è parte del mio lavoro, se no non ci parlerei. Beh, la verità, no? Mi pare sia... Che ci permette di farci piacere di parlare con noi? Ma no, ma non mi importa, è suo dovere parlare con i giornalisti. Io invece non ho condiviso il suo lungo e ostinato silenzio stampa con cui ha chiuso la stagione. Insomma, tra sportivi professionisti, per gli sportivi professionisti parlare con la stampa è parte integrante del loro lavoro. Io il silenzio stampa non lo condivido mai e in nessuna maniera. Tanto che questa parte del lavoro è presa in maniera estremamente seria, con io grande ammirazione per gli sport americani, nello sport americano proprio, insomma, lì non si deve mai permettere di sottrarsi alle domande dei giornalisti, è praticamente vietato il silenzio stampa, quello non l'ho condiviso. Quanto al resto io non ci trovo niente di scandaloso, ma se uno esprime il suo pensiero, perché deve scandalizzare così tanto? È questo che mi domando. E mi domando anche per quanto tempo andremo avanti a parlarne. Luca, provincia di Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. volevo parlare di Juventus. Sì, prego, volentieri. Dunque, lei, ho sentito più volte che ha detto che non c'è più tempo in questa Juve. Io volevo chiederle, ma secondo lei non è possibile comunque dare un margine di tempo a uno come Del Neri, che comunque non ha mai vinto tanto nella sua carriera, ha sempre allenato squadre di mezza classifica? Sì. E comunque secondo me bisogna fare un bagno di umiltà e dire il prossimo anno ripartiamo non puntando al titolo, ma puntando comunque ad arrivare fra le prime quattro. Sì. Poi, Luca, però mi perdoni, sarebbe già il terzo anno dopo la... dopo la Serie B, insomma, sarebbe già il terzo anno, tanti, Io torno a ripetere, la Juventus non ha più tempo, poi ha una eccessiva, anche a tratti incomprensibile, senz'altro smodata, sguaiata e pericolosa pressione da parte della piazza, di una certa parte della tifoseria. Confermo il fatto che la Juventus non ha più tempo, perché io non credo che possa permettersi quest'anno di dire vabbè, vediamo come va, obiettivo quarto posto, non credo che possa permetterselo. E con queste premesse rimane il mio dubbio, cioè è meglio Del Neri, che è un bravissimo allenatore e una persona estremamente seria, oppure valeva la pena andare su un allenatore che già sa come si fa a guidare grandi squadre, a vincere gli scudetti, a vincere le coppe dei campioni, eccetera? Rimane un mio dubbio. Dunque, prima di tornare agli ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde, e messaggi 348 239 238 6666. Prima di questo vorrei darvi un paio di notizie carine e leggervi una dichiarazione che è appena uscita di Marchisio. Non so se è l'onda lunga di Mourinho per tornare lì, però in questi giorni sto finalmente leggendo un po' di dichiarazioni sincere, interessanti e fuori dal coro. Una di queste, di un azzurro che andrà certamente in Sudafrica, senza dubbio. Sarà interessante anche capire in quale ruolo, perché sappiamo che è al centro di esperimenti da parte di Lippi. Si chiama Claudio Marchisio, ovviamente giocatore juventino, e che oggi ha detto: io ringrazio Calciopoli, perché se non ci fosse stata sarei arrivato molto dopo, ha detto oggi Marchisio. Con Deschamps spesso ho giocato in primavera, ma poi ho trovato spazio in prima squadra. Certo, per tutti passa un treno, io ho sfruttato il mio. Ma per tutti noi giovani Calciopoli è stata un'opportunità, non solo alla Juve. Anche Roma e Milan hanno puntato sui giovani. Tra scandalo, problemi di bilancio e di immagine, diverse società hanno avuto coraggio, un coraggio che altrimenti non avrebbero trovato. Ed è la verità, null'altro che la verità. Anzi, Marchisio, vedo che sta parlando con Skype, proviamo a sentire le sue parole. Quest'estate, fino ad ora che sono in questo ritiro premondiale, quindi ora c'è questo nuovo ruolo dove mi sto abituando in questi giorni, anche che non è che mi considero una mezza punta, più che altro è un centrocampista in più, dove cerco di dare una mano agli attaccanti in fase offensiva, ma anche soprattutto cercando di coprire quando chi giocherà poi come mezze punte esterna, chi potrà essere tra Di Natale e tutti, dare una mano poi al centrocampo in fase difensiva. È questo più che altro che devo fare. Questo a proposito appunto di quel nuovo ruolo che Marchisio avrà con la nazionale italiana. Un'altra notizia di oggi è la replica di Abete ai fumi della Fiorentina, che si è piccata per l'annuncio di Cesare Prandelli prossimo CT. Ebbene, Abete ha detto: la firma di Prandelli avverrà nei prossimi giorni, dopo che sarà rescisso il contratto con la Fiorentina. Ha aggiunto: non mi attendevo questa reazione del club, per questo abbiamo espresso come Federcalcio stupore e rammarico, ma non credo ci saranno problemi a chiedere un percorso che è stato trasparente fin dal primo momento. Abbiamo atteso la fine del campionato e l'ok da parte della Fiorentina per contattare Prandelli, con il quale ci siamo incontrati domenica scorsa. Anche se sapevamo da dicembre che Lippi non avrebbe proseguito il suo rapporto con la Federcalcio per le qualificazioni europee successive ai mondiali in Sudafrica, non abbiamo avuto nessun contatto né diretto né indiretto con la famiglia della Valle prima della fine del campionato. Queste le parole di Abete. Altra notizia curiosa, carina, che è uscita oggi, è stata confermata oggi, è che seguendo il nuovo trend, magari Franco D'Assisti ci farà una puntata in uno di questi sabati per la Rosa Purpurea, cinema prestati al calcio, perché i mondiali saranno in 3D in Italia, al cinema, dopo l'esperimento della finale di Team Cup tra Roma e Inter, si potranno seguire con questa tecnologia 12 gare del campionato sudafricano. La Federazione Internazionale ha previsto la copertura tridimensionale in 5 stadi per un totale di 25 gare. In Italia se ne potranno vedere 12 nella fase preliminare Italia-Slovacchia e Brasile-Portogallo. Dagli ottavi in poi tutte le partite, in dubbio la proiezione della gara inaugurale. Le partite saranno trasmesse nei cinema di tutto il territorio, ovviamente attrezzati, tutto il territorio nazionale. E i biglietti si potranno acquistare online o al botteghino. Tra l'altro in 3D sarà anche la finale del Roland Garros al cinema, a chi interessa il tennis. Enrico da Padova, Davide da Pisa, Ciro da Napoli. Buongiorno Enrico. Sì, buongiorno. Il mio intervento era sulla nazionale. Metterà gli occhialini per vederla in 3D lei? Ma sinceramente sì, mi sembra una cosa, una bella novità e vediamo. Può essere. Dica sulla nazionale. Sulla nazionale, allora, in questi giorni si sente parlare tantissimo delle scelte di Lippi, in particolar modo delle scelte sui difensori, se noi leggiamo i giornali o ascoltiamo gli operatori, i tecnici. Parlano sempre di questi di Cannavaro. Allora, la mia domanda nasce da qui. A me sembra ovvio chiedere, ma perché invece di parlare dei difensori non parliamo degli attaccanti? Ieri ho visto come giocherà la nazionale, ho visto la convocazione di Camoranesi, come tutti ormai noi ben sappiamo. Sì. Visto che giocherà con Camoranesi a sinistra, perché non ha convocato Balotelli? Mi sembra talmente ovvio. Sì, in teoria. Di Camoranesi, che garanzie può dare Camoranesi al posto di Balotelli? Guardi, ma al di là di Camoranesi, io Balotelli avrei convocato a prescindere, Enrico. Il problema vero è che è sempre lo stesso, no? Balotelli, per ragioni misteriose, perché Lippi non le ha mai spiegate né su Balotelli né su Cassano, io torno a ripetere, secondo me ha tutti i diritti di fare le sue scelte, diritti che si è conquistato sul campo, totalmente legittimi, no? Poi staremo a valutarle le sue scelte nel corso dei mondiali, alla fine dei mondiali. Io avrei semplicemente gradito avere delle motivazioni per le quali questi giocatori non sono entrati a far parte del gruppo. Sappiamo bene come Lippi, per questo discorso, no? Io mi attendo che Giuseppe Rossi vada ai mondiali e Borriello stia fuori. Cassano e Balotelli non sono mai entrati a far parte di questo gruppo. Entreranno, Balotelli certamente, Cassano probabilmente, a far parte del gruppo di Prandelli. Un giocatore come Balotelli più di Cassano io non l'avrei lasciato a casa questi mondiali, ma sono solo discorsi teorici, ipotetici ed esclusivamente tecnici, mentre Lippi non fa solo discorsi esclusivamente tecnici, ma ne fa di altro tipo, insistendo sulla forza del gruppo, che è stata quella che poi ha portato l'Italia ad essere così forte ai mondiali in Germania, perché Lippi aveva lavorato dal primo giorno del suo mandato con un'idea di squadra ben precisa in testa e si è discostato pochissimo, basta guardare le convocazioni, da quella prima idea che aveva. Ora ha operato nello stesso modo, sulla base di materiale un po' più logoro, però, uno come Balotelli, per caratteristiche tecniche, io da un mondiale non lo lascio a casa, perché è un giocatore che è giovane a entusiasmo, e questo lo sappiamo, però soprattutto è un giocatore che è in grado di entrare al 30° del secondo tempo di una partita e di fare male all'avversario. No? Quindi, proprio per queste caratteristiche sono i giocatori che servono per un mondiale, sono giocatori da mondiale. Davide da Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, un commento molto rapido sulla Juventus, e anche riallacciandomi un po' ad un ascoltatore di prima. Volevo dire, io non sono molto d'accordo sul discorso non c'è più tempo, cioè per un motivo molto semplice, perché ci vorrà tempo. Cioè il motivo è questo. È inutile illudersi che la Juventus, dopo 3 anni praticamente sprecati, dopo tutto quello che è successo, l'anno prossimo sia in grado di costruire ex novo una società, un allenatore, una squadra che sia in grado di vincere il campionato o di vincere qualcosa di importante. Secondo me ci vorrà tempo. L'altra volta di anni ce ne sono voluti 9, perché abbiamo vinto... dall'86 abbiamo di nuovo vinto il campionato del 94-95. Sì. Questa volta, a parer mio, ce ne vorranno altrettanti, perché la situazione non Praticamente questo è un ripartire da zero. Certo, però, però si riparte da zero per la quarta volta ed è questo il peccato originale. Un ascoltatore prima mi fa notare il quarto anno, questo sì, però l'anno in cui il primo anno dal ritorno dalla Serie B non conta. Dunque, questi tre anni e tanti soldi sono stati buttati via. Da questo punto di vista dico, e l'ambiente non ha più pazienza, perché insomma la ricostruzione richiede tempo, però si tratta anche di cercare qualche scorciatoia alla ricostruzione. Si tratta di vedere una Juventus competitiva già da subito, magari non in grado di andare a battere l'Inter, però magari di fare un campionato come quello che ha fatto la Roma, di andarli vicino, insomma, di andare a dar fastidio all'Inter, di essere comunque una squadra credibile in Italia come in Europa. E per questo io dico, la Juventus non ha più tempo. Poi è chiaro che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, nemmeno Mourinho, però io dico, davvero Del Neri, davvero un allenatore che è al debutto in un grande club, questo mi lascia un pochino perplesso al di là di tutto. Ciro da Napoli, buongiorno. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Grazie per avermi telefonato. Senta, io mi volevo collegare a Mourinho. Sì. Condivido in pieno quello che ha detto, consideri che io sono tifoso del Napoli, quindi sì, fondamentalmente mi interessa poco. Sono contento che lui abbia vinto quest'anno, abbia fatto la tripletta, per me ha messo la firma. Mi dispiace che magari un giornalista o qualche giornalista, insomma, sentiamo la mancanza di Mourinho solamente adesso che se n'è andato, quando c'era l'abbiamo aggredito, o l'avete magari, io o l'hanno ma non per magari. Perché ognuno poi la, giusto che la pensi come ne abbia, come ne ha voglia, non, io personalmente non ho mai avuto nulla di particolare contro Mourinho. In alcuni casi, ripeto, è stato villano. Ecco, la cosa in cui è stato più maleducato, visto che continua a rimbalzare questa parola, l'aspetto in cui è stato più maleducato è stato l'ultimo, cioè non presentarsi a San Siro con la Coppa, non tornare con la squadra. Quello è stato un gesto di grande maleducazione che a me ha dato fastidio. Quanto al resto non saprei, anche no. Dica, Ciro. Sarebbe stata completamente in suo onore la festa, però voglio dire, questa è una cosa personale, per quanto mi riguarda io ho avuto un cessato come tifoso, un comunicatore che per me mi ha fatto divertire spesso ed è una persona intelligente, una persona che ha salvato la squadra ed dicono sì, è vero, ha avuto la squadra a sua disposizione, ma l'Inter sono 20 anni che c'ha una squadra e solo Mourinho gli ha fatto vincere la Coppa. Volevo dire una cosa però per finire. Sì. Dove si misura la malattia del calcio italiano? A mio avviso un allenatore che porta una squadra con una tifoseria rispettabile del Neri, porta la Sampdoria in Champions e lascia questa squadra per andare a allenare una squadra ridotta a brandelli che non va manco in Europa e che al 90% quest'anno, io sono uno di quelli che pensa che non si può rifondare una squadra in quelle condizioni in un anno e fargli vincere lo scudetto. Sì. Per me là si vede la malattia del calcio italiano, perché invece di avere continuità. Sì, squadra. Uno sì, Ciro, che però fa 10 gol e subito si parla di Milan. No, questo è vero, ma fa parte del gioco. Ma io non ci vedo in questo grandi segnali di malattia. Cioè, mi sarei stupito se Gigi Del Neri, dopo una carriera rispettabilissima in provincia, con un paio di tentativi non andati a buon fine, mi riferisco al Porto, tentativo che praticamente non c'è mai stato, e alla Roma, non mi sorprende che abbia accettato la panchina della Juventus. Secondo me è del tutto legittimo, per anche stimolante per Ranieri andare proprio in questa fase, nella fase della ricostruzione, nella fase della nuova dirigenza alla Juventus. Non ci trovo nulla di malato in tutto questo, personalmente. Un sacco di messaggi, anche le vostre telefonate. Purtroppo non riesco a parlare con tanti ascoltatori quanti vorrei, ma domani saremo qui nonostante la festa, saremo qui in diretta 2 giugno, in diretta con la Tempo di Sport per voi e per le vostre chiamate. Un sacco anche i messaggi, dicevo, come si fa, come si fanno a paragonare signori come Ferguson, Wenger, soprattutto Guardiola, Mourinho. Il mio parere è che per avere la dialettica ferrata non occorre essere per forza maleducati, e torna questo termine di maleducazione su cui si potrebbe anche discutere. A proposito di Ferguson e Wenger, sono due signori certamente, però anche loro qualcuna l'hanno combinata nei rapporti reciproci, perché ricordo un Manchester United Arsenal, in cui negli spogliatoi volò un po' di tutto, compresa parte del buffet. Magari può confermare Lorenzo Amuso. Buongiorno Lorenzo. Buon pomeriggio, sì, dici bene, insomma, tra i due c'è sempre stato un sano confronto dialettico negli anni, negli ultimi anni, insomma, anche Benitez, peraltro, visto che è stato nominato precedentemente, uno che certamente non le manda a dire e che è entrato in rotta di collisione con Wenger e Ferguson più di una volta. Sì, ma con toni molto accesi, perché noi magari le conferenze stampa inglesi, salvo quelle di Ancelotti, non le vediamo, però c'è una dialettica vera in Inghilterra. Assolutamente, sì. Poi in Inghilterra si parla tanto di calcio, anche se i tecnici si confrontano anche sui diversi tipi, impostazioni tattiche, sì. E lì per esempio Benitez in più di un'occasione è stato criticato, nella fattispecie, da Wenger, che lo accusa un po' di essere un tecnico all'italiano, un po' troppo difensivista. Insomma, ci sono spesso e volentieri confronti dialettici che possono anche trascendere talvolta. Sì. Mi ricordo un Mourinho, all'epoca allenatore del Chelsea, che attaccò Wenger dandogli delle voyeur perché aveva criticato l'impostazione tattica del Chelsea, e Mourinho disse: beh, io non ho mai giudicato il lavoro dei miei colleghi, evidentemente Wenger è un voyeur. Ma noi non siamo abituati, vedi? Una cosa così avrebbe scatenato tuoni e fulmini. Lorenzo, però volevo chiederti, a proposito, già che stavamo parlando di Benitez, si muove Benitez? Perché Liverpool è in ristrutturazione, si muove magari anche Fernando Torres, si muove Gerrard? Allora, Benitez è prima di tutto blindato da un contratto principesco che ha scadenza 2013, guadagna un sacco di soldi a Liverpool, più di 4 milioni di sterline nette all'anno. In più Benitez è solito lavorare con un gruppo di collaboratori che appunto costa anche quello. Si è fatto un calcolo per liberare Benitez prima del termine ultimo del suo contratto. Chi volesse ingaggiare Benitez dovrebbe pagare qualcosa come più di 20 milioni di sterline, e già questo credo che renda l'ingaggio di Benitez molto complicato. In più c'è che Benitez non ha mai nascosto il suo desiderio di restare a Liverpool, sente che c'è un progetto che non è ancora terminato, lui è ambizioso e convinto di poter costruire un ciclo vincente a Liverpool e vorrebbe restare, questa almeno è la sua priorità. Certo è che di fronte alla situazione attuale del Liverpool, che come dicevi giustamente tu, è in una fase di transizione, il club è sul mercato, nel senso il club è in vendita, i due proprietari statunitensi lo vorrebbero vendere, ma per adesso non c'è un acquirente serio, quindi è una fase di transizione e di incertezza, e non si sa bene quanto potrà investire nel mercato. Sì. I rapporti con alcuni senatori, i rapporti tra Benitez e alcuni senatori dello spogliatoio, nella fattispecie Gerrard, sono sempre più difficili, e Gerrard stesso ha ammesso che deciderà se restare o meno a Liverpool al termine del mondiale. Tra parentesi, Gerrard è in cima ai desideri di Mourinho al Real Madrid. Per quanto riguarda Torres, bisognerà capire il futuro di Benitez. Se Benitez andasse via da Anfield, allora a quel punto probabilmente anche Torres prenderebbe in considerazione un passaggio, altrimenti credo che i due resteranno assieme a Liverpool, perché comunque insomma anche Torres si trova molto bene in Inghilterra e difficilmente lo potrei vedere. No, perché vedi Lorenzo, qui in Italia, dopo che è sfumata l'ipotesi Capello, cosa che mi confermerà immagino, insomma pare che Benitez sia il nome più plausibile per la panchina dell'Inter. Intanto mi confermi, no, che Capello non si muove? Conferma al 100%, tra l'altro in realtà se ne è parlato più in Italia che non in Inghilterra di un possibile passaggio di Benitez, di Capello all'Inter, perché Capello ha sempre detto, lo ha sempre ripetuto in ogni circostanza, che avrebbe voluto restare sulla panchina dell'Inghilterra fino alla scadenza del suo contratto. Il problema qual è stato? È che negli ultimi tempi all'interno della Federcalcio inglese si è assistito ad un ribaltone, l'ex presidente Lord Trisman si è dimesso per lo scandalo della registrazione delle sue dichiarazioni a proposito di possibile combine della Federazione Spagnola e Russa. Insomma, c'è stato uno scandalo, lui si è dimesso, era l'interlocutore privilegiato di Capello, al quale Capello non più tardi di un mese fa aveva chiesto che venisse tolta una clausola rescissoria che avrebbe consentito nelle due settimane. Lorenzo, ma è realistico dire che Capello abbia preso un po' il treno di questo interessamento dell'Inter per fare due conti, visto che assolutamente i parametri, per adeguare i parametri del suo contratto? No, non si è discusso nella famosa ormai conversazione telefonica di ieri tra Capello e l'attuale presidente del Club England, non si è discusso di adeguamenti salariali quanto del fatto dell'esclusione di questa clausola. Capello non si voleva trovare a fine luglio, magari al termine di un mondiale deludente per l'Inghilterra, esonerato dall'Inghilterra stessa senza squadra. Lui quindi aveva raggiunto questo accordo con Trisman, un accordo che non era mai stato ratificato per la dimissione dello stesso presidente della Federcalcio inglese, un accordo tale per cui questa clausola rescissoria, che consentiva ad entrambe le parti nelle due settimane successive al mondiale di rescindere il contratto unilateralmente, ecco, lui aveva chiesto che questa clausola venisse esclusa, l'ex presidente aveva accettato. Sì. Ma non era mai stata ratificata. Allora, sì, lui certo. Come aveva rifiutato, perché era stato contattato da Milan, dalla Juventus, dalla nazionale russa, e non aveva esitato a respingere al mittente queste offerte, nel caso dell'Inter lui è stato più ambiguo, ha tergiversato, ha temporeggiato, perché insomma ha voluto lanciare un messaggio alla federazione per spiegare che insomma lui era ricercato, inseguito da club prestigiosi, che quindi eventualmente anche lui si sarebbe potuto accasare diversamente. Voleva delle garanzie che ha ottenuto ieri nella conversazione telefonica che ha intrattenuto con questa nuova figura, un nuovo responsabile della federazione inglese. Una volta ottenute quelle garanzie, lui semplicemente ha confermato quello che aveva sempre detto, ovvero sia che lui vuole restare sulla panchina dell'Inghilterra fino agli europei del 2012. Quindi di Capello all'Inter non se ne parla più, fino agli europei del 2012 almeno. Grazie Lorenzo. Buon pomeriggio. Alla prossima, grazie davvero a Lorenzo Amuso che ci racconta tutto sull'Inghilterra, come al solito. Adesso ci fermiamo, ma domani, come ripeto, saremo in onda in diretta dalle 14 alle 15, pronti a commentare la lista degli azzurri, a dare un'occhiata alle novità, a parlare della gara 1 di semifinale scudetto del basket, gara 1 che si gioca questa sera, Siena contro Cantù, Caserta contro Milano, quindi comincia il ballo delle semifinali playoff e noi naturalmente non potremo domani non parlarne. Grazie a Franco Piantanida per il lavoro in redazione, a Filippo Oreggi in regia, buona giornata.